tu stringi tra le tue mani queste ricchezze, i tuoi vent'anni e le promesse dei tuoi domani. Quando in te l'amore scende ad offrirti notti bianche, quando tu vedi che da lontano ride la vita, quando tu cerchi in ogni mano una carezza, ubriacati di questa giovinezza. Non sai che per noi sono contati tutti i minuti. Tu non puoi fermare il tempo che ti sorpassa e passa. Quando i vent'anni sono un ricordo senza domani, inutilmente verso di loro tendi le mani, con la via leggera questa giovinezza. Il tempo di un sorriso e diventiamo grandi, il tempo di sapere e non ci importa più, e della breve farsa che tu recitavi come primo attore resti spettatore. Quando tu stringi tra le tue mani queste ricchezze, i tuoi vent'anni e le promesse dei tuoi domani, quando in te l'amore scende ad offrirti notti bianche, quando tu vedi che da lontano ride la vita, quando tu cerchi in ogni mano una carezza, ubriacati di questa giovinezza. Non sai che per noi sono contati tutti i minuti. Tu non puoi fermare il tempo che ti sorpassa e passa. Quando i vent'anni sono un ricordo senza domani, inutilmente verso di loro tendi le mani, vola via leggera questa giovinezza.